Welcome to the Magic Show's presence. Good listening. Ed eccoci qua, partiamo. Bentrovati a tutti da parte del Mangia. Siete all'ascolto del Mangia Show. In apertura vi ricordo ancora una volta tutti i vari contatti per interagire con la nostra trasmissione. Abbiamo un sito web, www.andreamangiarotti.com, il mio blog, dove potete iscrivervi a Facebook, richiedere l'amicizia al sottoscritto, oppure leggere quello che scrivo su Twitter Network. Ma non ci sono solo i social network per entrare in connessione con la trasmissione, potete anche scriverci una mail se vi va. Il mio indirizzo è il seguente: demangia@mangiarotti.org. Ricordate, demangia@mangiarotti.org. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici di che cosa parliamo in questa trasmissione. Si parla di cose frivole e principalmente si ascolta grande musica, ma non la solita musica consona che magari ascoltate nelle televisioni tipo MTV oppure nei grandi network importanti. All'interno del Mangia Show si ascolta solo ed esclusivamente musica Creative Commons oppure musica di pubblico dominio, così perché ci piace essere molto liberi, molto free, e dare spazio anche magari ad altri grandi cantautori che hanno scelto di loro spontanea volontà, insomma, di non essere tutelati dalla SIAE e dalle altre varie società, ma bensì hanno scelto la Creative Commons License. Ed ora direi di partire subito con la prima canzone. Loro sono Adult Only, una band che a me piace in modo particolare. Trovate tutte le loro opere su www.yamendo.com. Tra le loro canzoni più belle sicuramente rientra anche questa traccia dal titolo Parfum.

dietro ogni galera c'è una scala che va su ma poi qua su. Ritorno, lo so che verrà un giorno in cui saremo un po' di più perché ci credo. E in fondo, dietro ogni galera c'è una scala che va su, qua su. Ora una notizia che ci giunge dall'AMSA. Pensate, 4 italiani su 10 non hanno mai navigato su internet. I dati sono della Eurostat, solo il 13% ha usato la burocrazia online in Italia. Sempre dall'ANSA, Roma, 4 italiani su 10 fra i 16 e i 74 anni non hanno mai usato il web. Emerge da una relazione Eurostat. L'ufficio statistico comunitario, il dato sull'Italia è molto inferiore alla media europea dove il 24% dei cittadini dice di non aver mai navigato sul web. Lo studio evidenzia inoltre che nell'ultimo anno solo il 13% degli italiani ha usato la burocrazia online contro il 28% dell'Unione Europea. Inferiore alla media comunitaria anche il dato su chi ha effettuato acquisti online, il 27% contro il 58% della media europea. Brunetta insomma aveva annunciato un, diciamo così, manovra massiccia per quanto concerne il web, voleva far navigare un po' tutti gli italiani e secondo questi dati della Eurostat non è così, anzi tutt'altro, come sempre la media europea è molto molto bassa rispetto al resto dell'Europa. E dopo un brano italiano ora vi porto tutti in discoteca con Sounds Wall DJ Team. We'll be right back. singolo di Sounds World DJ Team, scusate, con questa canzone dal titolo Aliens Cardiogram, stupenda. La trovate anche essa sul sito www.yamendo.com, cercate DJ Wall Team, le opere di questa band, come tutte le canzoni trasmesse in playlist, fanno parte della licenza Creative Commons. Al timone del Mangia Show, sempre il vostro amico Mangia, il vostro amico Andrea. Vi ricordo ancora una volta il mio sito, il mio blog, per entrare in connessione con me, www.andreamangiarotti.com. l'email invece è themangia@mangiarotti.org se volete comunicare con il sottoscritto. Ora andiamo avanti insomma con le nostre notizie curiose, sempre dal mondo del web. Molti di voi sicuramente si saranno dati da fare cercare su Google spesso argomenti di loro interesse, ma pensate un pochino, tra le parole più cercate dagli internauti su Google, ma anche sul motore di ricerca Yahoo, c'è borsa e bunga bunga, le regine del web. La borsa italiana e il bunga bunga, scusate, le dimissioni di Berlusconi sono queste, segno dei tempi, tra le parole e i fatti più cercati sul web in Italia nel 2011, secondo la ricerca annuale di Yahoo, che rivela la tendenza degli italiani in rete. Nella top 10 al primo posto c'è sempre Facebook, ma entra anche il censimento, e tra i fatti internazionali che hanno fatto più interesse agli internauti figura la crisi dell'eurozona, Fukushima, la cattura di Gaddafi. La lista delle parole, dei personaggi e degli argomenti più cercati è contenuta nel mini sito di Yahoo dedicato ai fatti dell'anno 2011, dove trovate online 6 classifiche. Pensate un po', nella lista delle keyword più ricercate, ovviamente al top c'è sempre Facebook, ma compare anche, diciamo così, la borsa italiana, e nella classifica ci sono anche meteo, oroscopi, giochi, programmi TV e Super Enalotto. Tra i fatti internazionali che hanno interessato gli italiani in rete, al primo posto troviamo le dimissioni di Berlusconi, seguite dalla crisi dell'eurozona, il disastro ambientale causato dalle centrali nucleari di Fukushima in Giappone, la morte di Bin Laden, la guerra in Libia, la cattura di Gheddafi. Molto cercate anche i termini Primavera Araba, Occupy Wall Street, una speciale classifica dedicata agli scandali politici. Ovviamente al primo posto chi che c'è? Ditelo voi, lo so. Al primo posto c'è Berlusconi e il Bunga Bunga, termine già entrato nel 2010 in diverse classifiche di ricerca. Seguito a ruota dell'arresto dei Dominique Strauss-Kahn con l'accusa di violenza sessuale, e poi ci sono altri termini che compaiono in questa lista stilata dal buon vecchio motore di ricerca Yahoo, che purtroppo sta attraversando un periodo di crisi. Giusto appunto, vi ricordo ancora una volta, l'ho fatto anche nelle precedenti trasmissioni, se siete curiosi di vedere insomma com'era il web nel 1999, vi do un sito, archive.org, un sito americano, dove trovate la home page di Yahoo del 1998, insomma quando Yahoo stava facendo, diciamo così, grandi passi in avanti ed era forse più importante di Google come motore di ricerca, più importante. Ora andiamo avanti con la musica, abbiamo proprio un bel brano che a me piace molto, lui si chiama Felix JD, che è anche la nostra basettina in sottofondo, lo trovate anche lui su Yamendo, e ci presenta una delle sue pubblicazioni più belle, più interessanti e più movimentate. Siete all'ascolto del Mangia Show. more music variety right here on The Listener's Choice. I'm not afraid to I love Cinecittà. Scusate per il jingle un pochino improvvisato, benvenuti a tutti all'interno del Mangia Show, questo è lo spazio dedicato al cinema, quest'oggi ancora una pellicola di produzione italiana, una bella pellicola anni 70, per voi analizziamo il film Il Vizietto. Un film di Edouard Molinaro del 1978, adattamento cinematografico di una commedia di Jean Poiret, messa in scena, pensate un po', nel 1973 e replicata per 5 anni consecutivi in un teatro di Parigi. Uno dei due protagonisti maschili, stiamo parlando quindi del film, è Michel Serrault, conservava proprio ruolo anche nel film come l'aveva conservato nella pièce teatrale, scusate. E invece il personaggio che interpretava Renato Baldi nel film è stato Ugo Tugnazzi. Un film bellissimo, titolo originale La Cage aux Folles, Italia-Francia 1978, alla regia Edouard Molinaro, spero si pronuncia in questo modo, musiche del grande maestro Morricone. Vediamo un pochino la trama. Renato e Alben sono una coppia omosessuale che da 20 anni gestisce un locale a Saint-Tropez. La Cage aux Folles, questo è il nome del locale. Simpatica la traduzione che dà Wikipedia di questo termine francese, la gabbia delle matte o anche la gabbia delle checche, insomma, uno slang particolare. Alben è anche la stella di punta del locale, conosciuta al pubblico col nome di Zaza Napoli. Stiamo facendo proprio una piccola e veloce carrellata sulla trama. Vediamola un pochino assieme. Una sera irrompe nella loro casa Loran, frutto dell'unica relazione eterosessuale di Renato, che sarebbe per l'appunto Renato, che sarebbe per l'appunto Ugo Tugnazzi. Il ragazzo informato dal padre del suo innamoramento di una ragazza e del suo diciamo così precoce matrimonio. Ma la ragazza è figlia del deputato e segretario del partito dell'ordine morale, uomo dunque di diciamo così morale e molto molto bigotto e conservatore. La ragazza, per ottenere l'approvazione del genitore, racconta loro che il padre del suo fidanzato è uno stimato diplomatico presso l'ambasciata italiana. Come ben sapete, insomma, invece Renato Baldi, Ugo Tugnazzi, non era un diplomatico, ma era un regista, uno scenografo che metteva in scena, per l'appunto, la Cage aux Folles, in questo locale di Saint-Tropez, uno spettacolo per soli travestiti. E la stella di punta era invece Zaza Napoli, la sua compagna, per l'appunto Michel Serrault nei panni di Zaza Napoli. Bene, un grave scandalo colpisce il partito dell'ordine morale, spinge il padre della ragazza a organizzare un incontro con i futuri consuoceri, sperando che il matrimonio con la famiglia così per bene risolva le sorti del partito. L'incontro tra le due famiglie avviene a casa di Renato e Alben, quest'ultimo travestito da donna per fingersi la madre naturale di Loran. Tra equivoci e doppio senso, la cena si rivela un totale fiasco. I genitori della ragazza, per sfuggire ai giornalisti, saranno costretti anche loro a travestirsi da donna e a scappare da questo locale di Saint-Tropez. Il titolo originale in francese, La Cage aux Folles, rimanda al nome del locale gestito da Renato Herben. Il titolo del film invece in italiano è un stereotipo, infatti nel linguaggio comune si usa l'espressione vizietto per indicare l'omosessualità, almeno si utilizzava negli anni 70, scusate. In realtà questo termine viene usato anche nel film per indicare lo strano vizio che aveva Renato ogni tanto di innamorarsi ancora delle donne. Vediamo un pochino i premi che ha vinto questo film. Vince il Golden Globe per il migliore film straniero, riceve 2 nomination all'Oscar, una per la migliore regia e una per la migliore sceneggiatura non originale. Michel Serrone, nella versione italiana doppiato da Oreste Leonello, riceve per la sua interpretazione il David di Donatello e il premio César. Poi sono stati fatti dei remake, come ben sapete, di Vizietto 2 del 1980, sempre con Ugo Tognazzi e Michel Serrault, Matrimonio con Vizietto del 1985, sempre con Ugo Tognazzi e Michel Serrault, una versione un po' più recente del 1996 è stata girata da Robbie Williams e Nathan Lane, spero sia giusto. Il titolo di questo remake era Piume di struzzo. Anche questa è una versione, direi, molto carina. Vabbè, non è ai livelli al top della versione originale, però questo remake americano è molto carino, vedetelo, magari lo trovate anche in giro su DVD. Bene, quest'oggi per I Love Cinecittà abbiamo analizzato un pochino velocemente il film Il Vizietto di Edouard Molinaro del 1978 con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Vi ricordo, le informazioni sono state reperite dal sito www.wikipedia.org, cercate nel motore di ricerca Il Vizietto. Ora continua la musica qua al Mangia Show, noi ci ritroveremo tra poco sempre con informazioni e con tanta grande, diciamo così, sound, grande musica. Vai, andiamo con la prossima canzone, Lovers in Paris. Thank you. sempre con voi il Mangia in diretta su scusate, ma avevo un problema tecnico, mi si è staccato il microfono, l'ho ricollegato, sempre in diretta con voi, dicevo, il Mangia qua su questa stupenda radio. Siete all'ascolto del Mangia Show. Vi ricordo ancora una volta tutte le coordinate per entrare in connessione con il sottoscritto: www.andreamangiarotti.com. Lì trovate i due link per accedere al mio profilo Facebook, se vi va. C'è anche il mi piace per quelle persone che magari non hanno voglia di richiedermi un'amicizia. Potete anche, diciamo così, senza richiedere l'amicizia, anche avere aggiornamento del mio stato. Io sarò ben lieto di contraccambiare con l'aggiornamento anche del vostro stato, sempre se l'avete attivato. Poi c'è Twitter, che trovate insomma nel mio blog www.andreamangiarotti.com. potete cliccarci sopra nel link e vi apre proprio la pagina di Twitter, e lì potete aggiungermi nelle vostre notizie preferite, se vi va, e sempre ovviamente se vi va. Se invece volete scrivere una mail, l'indirizzo è il seguente: demangia@mangiarotti.org. ricordate, demangia@mangiarotti.org, insomma, per essere in connessione assieme a me e insieme al Mangia Show. Vi ricordo che la trasmissione vi permette di ascoltare delle canzoni di musica Creative Commons. Non trasmettiamo assolutamente musica protetta dai diritti d'autore della SIAE, perché non abbiamo, diciamo così, deciso di pagare, com'è che si chiama, le royalties alla SIAE. Quindi ascolterete della bella musica Creative Commons libera, libera per tutti, per tutti i gusti. Vi ricordo qualche sito dove trovate questa musica che noi trasmettiamo. Allora, ovviamente il primo, il nostro mitico portale dove noi attingiamo per la trasmissione, www.yamendo.com, www.yamendo.com. Poi c'è anche www.archive.org, è un sito americano, anche qui trovate tanto materiale, veramente c'è da sbizzarrirsi, e basta cercare qualsiasi cosa nel motore di ricerca e vi compaiono tantissimi file, non solo audio ma anche video, foto storiche, come che vi ho detto in precedenza. Hanno anche rispolverato la vecchia home page di Yahoo del 1998, quindi navigando in quelle pagine trovate veramente di tutto per i nostalgici del web, ma non solo. Ora andiamo avanti con la musica. C'è un artista che a me piace in modo particolare, ora ci ascoltiamo una sua canzone e poi vi darò qualche maggiore informazione proprio su questo artista scandinavo. Lui si chiama Kamerer, su questa radio all'interno del Mangia Show. Thank you. Eccolo qua, bravissimo come sempre, Camerer, scritto con la K, la A con i puntini sulla prima A. Camerer è un artista svedese, per l'esattezza di Göteborg, e lo trovate su www.yamendo.com, il portale a cui noi attingiamo per preparare la nostra playlist e trasmissione. Quindi ricordate Camerer su www.yamendo.com. Io volevo proprio parlare un pochino di questo artista, che produce principalmente musica lounge, chill out, elettroniche, musica anche ambient. Trovate circa una decina di suoi CD, tra cui vi segnalo il 2011, poi trovate un album molto bello che è intitolato Return of Sofia, Waters, Urban Flowers e Living in Paradise. Living in Paradise e Return of the Sofa, Return of Sofa, ecco, è giusto. All'interno di Living in Paradise e Return of Sofa noi abbiamo, diciamo così, pescato molte tracce che poi trasmettiamo in playlist all'interno del The Mangia Show. Comunque ci sono anche altri CD in formato MP3 che vi potete ascoltare e scaricare sul sito www.yamendo.com. E all'interno dello spazio di Camerer vi volevo leggere anche quello che scrive per quanto concerne la biografia. È scritto in inglese, l'ho tradotto velocemente al volo, diciamo così, con Google Translator, e ne esce fuori questo: non lasciarti mai andare, si muove sempre lento e veloce, questo non importa, solo non è divertimento. Poi dice: non accettare noia e tristezza, cerca di essere te stesso insomma. Quindi la sua musica è molto molto allegra, è anche un invito a noi ad essere un po' più allegri, gioiosi e, perché no, spensierati. Magari c'è un po' difficile per via della situazione in cui viviamo, però come dice Camerer, cerchiamo di cacciare la tristezza e cerchiamo di essere un po' più allegri. Prossima canzone è altrettanto carina e ve la faccio ascoltare al volo. Vai! More music variety right here on the listener's choice. Take on the line, baby, will you? purpose of life. Un'altra news che ci giunge dall'ANSA: sui social network domina il conformismo. Secondo uno studio della CISA di Trieste, Facebook e i social network su internet inducono le persone a evitare conflitti e ad adottare scelte conformiste, adeguandosi alle scelte degli amici o degli opinion leader. È la conclusione a cui giunge uno studio di ricercatori del SIS di Trieste. L'analisi dell'interazione tra le persone nei social network, secondo lo studio, dimostra la validità della teoria dell'equilibrio formulata negli anni 50 dallo psicologo Fritz Heider, spero che si pronunci così. Siete sempre all'ascolto del The Mangia Show, in vostra compagnia il Mangia. Vi ricordo ancora una volta tutti i nostri contatti, se avete voglia di interagire con noi, si parla proprio di interazione, insomma, con i social network. Potete visitare il mio blog all'indirizzo www.andreamangiarotti.com, li trovate i link che vi portano nei principali social network. E ora andiamo avanti con questo bel brano di Novax. È un, diciamo così, un campionamento di un vecchio disco dei New Kids on the Block che sicuramente ricorderete. Il titolo era proprio Step by Step, ma questa canzone si intitola invece Intergalactic Disco. Novax all'interno del Mangia Show. Intergalactic Disco di Novax è anche l'ultima canzone che conclude il Mangia Show di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento prossimamente, ovviamente, con altre puntate del nostro show, sempre Dio piacendo, ovviamente. In conclusione vi ricordo ancora una volta il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate tutte le informazioni sul sottoscritto e trovate anche i link che vi portano ai social network per diventare miei amici su Facebook, oppure semplicemente per aggiungerci, diciamo così, su Twitter tra le vostre notizie preferite. Direi di finire qua la trasmissione. Ancora una volta ringrazio tutte le amiche e tutti gli amici per aver ascoltato il The Mangia Show. Però voi non spegnete la radio, perché appena dopo la trasmissione ripartiranno le medesime canzoni che avete ascoltato in playlist, senza alcuna interruzione da parte del sottoscritto, da parte di uno speaker. Quindi vi ascolterete interamente e integralmente tutte le canzoni della puntata odierna del The Mangia Show. Io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi abbraccio e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione, se rimanete all'ascolto, oppure un buon proseguimento di giornata, sempre su questa magnifica, magnifica radio. Un abbraccio dal Mangia. Ciao ciao, ci risentiamo alla prossima. Bye bye. Have you heard? The Mangia Show. Mangia Show. In partnership with www.mangia.com. Is renewed. In the next episode. Thanks for listening. Va ora in onda il The Mangia Show Deluxe. Only music for you. Welcome to the Mangia Show. Good listening. More music variety, right here on The Listener's Choice.

More music variety right here on The Listener's Choice. We'll be right back. Thank you. Disco! The Menzies Show. Menzies Show. In partnership with www.intermodulator.com. The appointment is renewed. In the next episode. Thanks for listening.